Noi crediamo di avere una convinzione in conseguenza di esperienze. Invece no. Abbiamo una convinzione e quindi facciamo certe esperienze. Queste esperienze rinforzano la convinzione. Numerose esperienze confermano la convinzione che no adeguato. Questa è la convinzione. Sono convinto che l'esperienza della vita, io posso portare un dossier su quante volte sono stato inadeguato, che confermano che è vero. Bene. Adesso fate così. Mettete tra parentesi tutto questo e guardatela così. Non sono adeguato. Come mi comporto quando non sono adeguato? Quale comportamento? E vedrete che questo comportamento fa fare questa esperienza. Cioè, mi sento inadeguato, blocco le mie risorse, non le faccio funzionare e quindi produco l'esperienza vera dell'inadeguatezza. In quel caso sono inadeguato. Ma c'è un'illusione, che la convinzione segua le esperienze. Invece le esperienze sono cagionate dalla convinzione. Sei una caga sotto. Sì, prima ti ho spaventato. Ti spavento, sei una caga sotto. Dopo ti dici sono una caga sotto, ogni volta che ti dici sono una caga sotto, ti senti una persona fragile, debole, no? Cioè ho ricevuto un messaggio forte da un'autorità esterna, poi questa autorità mi giudica. Lo stesso faccio al mio interno. È talmente semplice che a volte è difficile da capire. È troppo semplice per poterla capire. È vero o no? Dette in altre parole, le convinzioni non sono constatazioni sulla realtà. I giudizi non sono constatazioni sulla realtà. Sono comandi affinché il giudizio diventi vero. Sono comandi al sistema percettivo e motorio di creare le esperienze che confermino la convinzione. C'è la convinzione che entra, immagina che sia un organismo estraneo, e tu gli dai da mangiare. Più gli dai da mangiare, più la convinzione cresce. Immagina aver verme solitario, gli dai da mangiare, e quello cresce. E più gli dai da mangiare, più cresce. Tu lo prendi e lo giri. Io mi rendo... Riprendo il metaprogramma attivo, perché in questo caso sono passivo, non posso fare niente. No, nel caso questo, ho tante esperienze di inadeguatezza, sono inadeguato, non posso fare niente, che posso fare? Se invece mi dico, aspetta un attimo, attivamente ho dato credito a una convinzione falsa, attivamente ho creduto a una cosa falsa. Ma questa cosa falsa a cui ho creduto mi ha fatto fare una serie di esperienze che confermano la convinzione. Yeah. Gli uomini mi rifiutano, tranquilla, che non ne beccherai uno. Con gli uomini mi va sempre storta, certo, cioè sicuro. Questa convinzione è un comando al sistema percettivo e motorio fare in modo che quella roba lì ti vada storta. È tremendo se ci pensate. Il potere delle convinzioni è enorme. Un signore anziano, che pare dotato di una certa intelligenza, aveva letto anche qualche libro qualche volta, non solo i quarti copertina, si chiamava Raymond Panikkar. A proposito di queste idee, roba come questa, dice «Sono la musica su cui i popoli e i governi danzano». Cioè tu apri i giornali, ti senti cosa si dicono i giornali su questo, su quell'altro. Se vai dietro, cos'è che causa tutta questa? Un paio di idee fondamentali che reggono tutto. L'economia di oggi crolla tutto se viene giù il mito che noi siamo esseri competitivi, egoisti e violenti. Crolla. No, cambiare mito mica facile. Ecco. Collettivo poi. Ecco. Allora, dentro di noi, se facciamo questo passaggio, beh, è veramente una rivoluzione, eh? Vi rendete conto? Di nuovo riprendiamo in mano il potere, non il potere dominio, il potere personale, il potere dell'anima.